Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette-otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, bene le borse, anche se non fortissime, più 0,8% a Milano, più 0,7% a Parigi, più 1,2% a Francoforte, più 0,4% a Londra e 0,4% è anche il rialzo dell'America in questo momento. In Italia, in particolar modo in evidenza Mediobanca, guadagna quasi il 5%, 8,24 euro operazione dopo l'annuncio che è arrivato oggi che Unicredit non intende cedere la propria quota. Questo è il motivo, perlomeno quello fornito dalle sale operative. Bene in generale le banche, poi capiremo anche perché. Bene anche A2A, anche qui nonostante la smentita sul dividendo più alto del previsto, il titolo guadagna il 3,3% e Prismian più 3%, ha vinto una commessa da 300 milioni di euro in Sicilia. Ripeto, ne parleremo nel corso dei mercati finanziari. Per quello che riguarda la giornata economica, partiremo con la legge finanziaria, la fiducia, l'approvazione, le dichiarazioni del ministro Monti sullo scudo fiscale, definito la più grande manovra finanziaria, se dovesse essere confermata, i 110 miliardi stimati, la più grande manovra mai fatta negli ultimi anni. E ancora, per quello che riguarda la parte, diciamo, di politica economica, al via il fondo, è arrivato il fondo per le piccole e medie imprese, 1 miliardo, l'obiettivo è arrivare a 3 miliardi, è il fondo per sostenere le piccole e medie imprese, ne parleremo anche di questo in apertura. Praticamente realizzerà i primi investimenti nella seconda metà del 2010 con fondi in larga parte privati. E questo sarà l'apertura del programma, quindi politica economica italiana. Poi ci occuperemo di alcuni settori, oggi come sempre facciamo in questo finale d'anno. Ieri abbiamo visto le assicurazioni, il mobilio arredo e anche il fronte alimentare sui consumi natalizi e sull'export alimentare italiano, molto buono il dato sull'export sotto Natale dei prodotti alimentari italiani. Oggi sarà la volta del settore alberghiero, anche qui stime su presenza e affluenza nel periodo natalizio. E poi ci occuperemo nella seconda ora del programma di un commento ai dati diffusi oggi dalla Banca d'Italia, che vi ricorderò anche adesso inizio programma, ma insomma la Banca d'Italia nota come si sia impoverita la ricchezza delle famiglie. In 2 anni è calata la ricchezza netta di circa il 2%, soprattutto perché si sono ridotti i guadagni da capitale, quindi gli investimenti fatti in borsa, meno 8%. Però a prezzi costanti e quindi al netto dell'inflazione, la riduzione della ricchezza complessiva rispetto al 2007, l'anno scorso, è stata di quasi il 5%, ossia 433 miliardi di euro in meno a disposizione delle famiglie italiane. Anche qui, ripeto, soprattutto per quello che riguarda, è dovuta soprattutto per quello che riguarda la parte di investimento finanziario e quindi l'andamento delle borse. Ne parleremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri sms. Adesso le notizie in breve. Allora, come sempre restiamo anche sui mercati, euro su dollaro a 1,45, quindi sempre relativamente forte il dollaro sulla moneta unica. Per quello che ha a che fare invece con il tema del petrolio, ha aperto sopra i 70 dollari al barile, a 71 dollari al barile. Soddisfazione oggi per quello che riguarda l'Eni Aeronautica per il volo inaugurale ieri del Boeing 787 Dreamliner, che assieme all'altro concorrente, no, non sono concorrente, ma insomma al Super Airbus, ha avuto non pochi problemi in fase di realizzazione. Comunque ieri con successo ha concluso il suo volo inaugurale nei pressi di Seattle, tra l'altro è durato circa 3 ore sotto la pioggia. L'aereo che ricordo è quello che collegherà non gli hub to hub, cioè non i grandi aeroporti, ma gli aeroporti medi con gli aeroporti medi, questa è la sua funzione, infatti si chiama aereo a medio raggio. farà risparmiare circa il 20% come carburante grazie a un insieme di materiali utilizzati per la realizzazione della fusoliera che viene fatta in Italia, tra l'altro, ed è l'Aeronautica appunto che ha definito un grande successo il primo volo del Boeing. Sì, per la precisione viene assemblato a Grottaglie in Puglia, se non la parte della fusoliera. Andiamo avanti con le altre notizie. Secondo alcuni elementi è Ben Bernanke l'uomo, la persona dell'anno. Lo avete scoperto oggi, forse avete già avuto modo di vederlo sui siti. Questo è infatti quanto il Time ha deciso oggi. Il Time ieri, l'anno scorso, aveva deciso di mettere in copertina come persona dell'anno il presidente Barack Obama, e oggi ha deciso di mettere il numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke, persona dell'anno 2009. La Federal Reserve è la banca centrale americana. Il deficit delle partite correnti americane nel terzo trimestre si è attestato a 108 miliardi, un po' sopra le previsioni degli analisti, mentre la buona notizia riguarda le nuove costruzioni abitative in America, che hanno segnato un balzo a novembre, più 9% quasi, 574.000 unità in più rispetto a un anno prima. E la Norvegia si conferma, se non ricordo male, assieme all'Australia, l'unico paese in cui i tassi di interesse sono già tornati a crescere, e oggi la banca centrale norvegese li ha rialzati per la seconda volta di fila, portandoli all'1,75%. Restiamo in Europa, ma andiamo in Italia, perché oggi ci sono i dati anche sull'export italiano. Tra ottobre hanno fatto un meno 24% le esportazioni, purtroppo le importazioni hanno fatto un meno 22%, quindi il saldo resta a vantaggio, il saldo resta della bilancia commerciale positivo, ma solo perché, anzi in questo caso va in negativo, scusatemi, di un 2%. Complessivamente io ricordo che la cosa più preoccupante è il calo mese su mese, perché a ottobre rispetto a settembre c'è un meno 5,6% nelle esportazioni, e mentre mese su mese le importazioni sono calate solo dello 0,4%. Il saldo commerciale appunto diventa negativo di 710 milioni di euro. Un anno fa, o meglio a ottobre di un anno fa, era negativo ma di soli 62 milioni di euro. E non è bello questo dato sul nostro export, anche perché per la prima volta, o perlomeno una delle poche volte, se vado a memoria, le importazioni calano meno di quanto non calino le esportazioni. Dov'è che abbiamo sofferto di più? In Germania meno 25% di esportazioni rispetto a un anno fa, Francia meno 21, Spagna meno 22, Gran Bretagna meno 28, America meno 25, Russia meno 43%, e ne parlavamo anche ieri con il settore del legno e mobilio arredo. Cina più 1,5, Giappone meno 7%. E i cali più forti purtroppo toccano i pilastri classici del Made in Italy: meccanica meno 28% rispetto all'ottobre del 2008, auto meno 28, elettronica meno 15, quante esportazioni, chimica meno 20, mobili meno 24%, eccolo qua, tessile abbigliamento, un'altra botta, meno 27%, il calo è un po' più contenuto nel settore alimentare, meno 9%. L'Istat oggi ha confermato anche l'inflazione allo 0,7% a novembre contro lo 0,3% di ottobre. Praticamente però su base mensile, cioè novembre su ottobre, i prezzi sono rimasti invariati. Per quello che riguarda i beni acquistati ad alta frequenza, questo indice che finalmente l'Istat, dopo tutte le polemiche sul passaggio lira-euro, ha sviluppato, i prezzi dei beni acquistati con alta frequenza, quelli della spesa di tutti i giorni, sono aumentati dell'1,2% rispetto all'anno prima, quindi c'è un tasso di inflazione più alto rispetto alla media, che è lo 0,7, e dello 0,3 rispetto al mese di ottobre. La polemica sulla pasta. Allora, se ne occuperà domani mattina Deborah Rosciani con Soldi Dintorni. La Coldiretti fa sapere che oggi i prezzi di prodotti agricoli sono ridotti complessivamente del 5%, ma la spesa sale, quindi la polemica non riguarda solo i prezzi della pasta rispetto ai prezzi del grano, ma in generale i prezzi dei generi alimentari di derivazione agricola rispetto a quello che poi arriva sullo scaffale, visto che appunto il dato sui generi alimentari a alta frequenza è dell'1,2% come inflazione, ma nei campi questi prezzi complessivamente sono calati del 5%. I misteri della filiera italiana. Nel frattempo crescono le sofferenze lorde bancarie, un vero e proprio boom delle sofferenze rispetto a prestiti concessi dalle banche. A ottobre più 30% rispetto a un anno fa. Praticamente sono salite a 56 miliardi e mezzo di euro, 1 miliardo e mezzo in più rispetto a settembre, 13 miliardi in più rispetto all'ottobre del 2008. Non è una bella notizia. La buona notizia è che secondo l'ABI i tassi sui mutui sono calati a un nuovo minimo storico, al 2,85% i tassi praticati per l'acquisto di casa a novembre, considerando anche i prestiti contratti a tasso fisso, che di norma sono più cari. Vabbè, export non bello quindi, vedremo come andrà poi nel mese di novembre, e soprattutto aumento delle sofferenze bancarie per quello che riguarda l'Italia. Nel frattempo il governo oggi, dopo aver posto la fiducia, l'ha incassata e 307 parlamentari, 271 dei parlamentari, 271 i no e 2 gli astenuti. È il 27° voto di fiducia in 19 mesi di legislatura. Allora, il governo ha incassato la fiducia, dicevamo, manovra che vale quasi 9 miliardi di euro per effetto di tutto un insieme di emendamenti che sono intervenuti nel passaggio Senato e poi Camera. Il valore è quasi triplicato appunto rispetto ai 3 miliardi e mezzo della versione che fu approvata al Senato in prima lettura. 3 miliardi e 7 provengono come copertura dallo scudo fiscale, 3 miliardi dal trasferimento dall'INPS al tesoro dei fondi TFR. Il resto inoptati e il resto da rimodulazione della spesa. E la polemica è stata di nuovo anche politica sull'uso della fiducia, perché ricordo l'opposizione, sia l'UDC che il PD, avevano detto rinunciamo ad alcuni emendamenti purché si possa dibattere della finanziaria alla Camera. Così non è stato, la fiducia è stata messa e secondo Fabrizio Cicchito, che è il capogruppo della PDL alla Camera, e lo ha detto al microfono il nostro Vincenzo Miglietta, non è un espediente, è assolutamente legittima. Innanzitutto va ricordato che questa finanziaria è passata attraverso il vaglio della Commissione Bilancio, che ha lavorato per molti giorni con 50 interventi e con un approfondimento e un confronto fra maggioranza e opposizioni. In secondo luogo, la finanziaria è il documento massimo che un governo presenta sulla sua manovra di politica economica e quindi è del tutto legittimo e non deplorevole che esso vada al Parlamento e se la faccia votare ponendo la fiducia. Così appunto Cicchito. Invece di diversa opinione Antonello Soro, capogruppo del PD alla Camera, sempre al microfono il nostro Vincenzo Miglietta. Questo è l'assunto di questa fase politica in cui il governo decide le leggi e il Parlamento le ratifica. È uno schema al quale silenziosamente l'Italia si sta abituando e il Parlamento perde ogni giorno un pezzo della sua funzione prevista dalla Costituzione repubblicana. Questo è un aspetto e non è il secondario, è un aspetto principale. Così appunto Antonello Soro. Alcuni di voi ci chiedono al 349-238-6666 che cos'è il voto di fiducia. Come funziona? Beh, nulla, insomma, quando il governo vuole blindare un progetto di legge, pone la fiducia, vuol dire che deve essere votata dalla sua maggioranza. Se per caso su questo provvedimento non si ottiene la maggioranza dei votanti, nel caso del governo Prodi, ma non solo, anche in alcuni altri casi, può cadere il governo, perché vuol dire che il governo non ha più la fiducia nel Parlamento. Porre la fiducia vuol dire blindare, obbligare la maggioranza a votare un provvedimento compatta, in caso contrario appunto vi sarebbe la caduta del governo. Questo, diciamo, in linea quantomeno di principio, ed è questa la contestazione, perché le opposizioni dicono se metti la fiducia sul provvedimento è impossibile poi discuterne in Parlamento, si va a votare o sì o no, il governo tiene o il governo cade. Di Pietro è il carnevale degli evasori, questa legge finanziaria, l'ho detto sempre al nostro Vincenzo Mignetta. Riteniamo che questa sia non una finanziaria, ma un carnevale degli evasori fiscali, una finanziaria di cartone verso la quale questo governo ha dovuto mettere la fiducia perché non ci credono neanche loro a come poter giustificare il ricorso agli evasori fiscali per sistemare i conti dello Stato. Se sono evasori, non penseranno certo allo Stato, ma solo agli affari loro. E questo è il fronte, diciamo, della parte politica e della fiducia alla Camera. Lo scudo fiscale è la più grande manovra finanziaria mai fatta negli ultimi anni. Lo ha detto il ministro Tremonti, ricordo che la stima dovrebbe essere a questo punto di 110 miliardi di euro scudati, regolarizzati col 5%, ossia vuol dire 5 miliardi e mezzo di incasso per lo Stato, quasi 2 miliardi in più rispetto a quanto messo in finanziaria, che appunto sono 3,7 miliardi, quasi certa, anche se se ne discuterà domani, la proroga del termine fino al prossimo 30 aprile, ma con un'aliquota che salirà al 6%. Sentiamo Tremonti sul giudizio di Tremonti sullo scudo. Se fosse confermata la cifra 80 o più, vuol dire, fatto 16 un punto di PIL, vuol dire che è la più grande manovra finanziaria mai fatta negli ultimi anni e non so dove altro, no? Perché qual è il paese che rimpatria PIL in questo modo? Cioè, quello che conta, vi dicevo, non guardate il dito ma il cielo, cioè non guardate una parte ma il tutto. Quello che è importante, se viene confermato il dato del rimpatrio fisico reale, quello che è importante non è solo il gettito addizionale, che tra l'altro è una tanto, ma quanto soprattutto il potenziamento dell'economia italiana. E poi il ministro Tremonti è intervenuto anche sulla lotta ai paradisi fiscali, dopo aver ricordato appunto che della proroga dello scudo si parlerà domani nel Consiglio dei Ministri, ha detto continuerà il contrasto ai cosiddetti paradisi fiscali. Non è che il contrasto ai paradisi fiscali finisce con lo scudo, è cominciato e continua perché tutto il mondo del G20 è contro i paradisi fiscali, tenere fuori i soldi non conviene. Così il giudizio del ministro Tremonti sullo scudo, sull'operazione scudo fiscale, ma Tremonti è intervenuto anche, ma in realtà lo ha fatto in maniera ancora più circostanziata il direttore generale del Tesoro Vittorio Grilli, dicevo, sul via al fondo per le piccole e medie imprese, 1 miliardo con l'obiettivo di arrivare a 3 miliardi. C'è un documento diffuso nel corso della conferenza stampa al Ministero dell'Economia appunto con il ministro Tremonti. Fondo che serve per sostenere le piccole e medie imprese e secondo quanto dichiarato il direttore generale del Tesoro Vittorio Grilli l'inizio dell'operatività del fondo è prevista per il mese di marzo, ha come obiettivo le 15.000 imprese italiane con un fatturato tra i 10 e i 100 milioni di euro. In particolare al fondo parteciperanno per la prima volta anche la prima tranche complessivamente da 1 miliardo, ma parteciperanno Unicredito, Monte dei Paschi, Intesa San Paolo e la Cassa Depositi e Prestiti, mentre la seconda parte di un altro 1 miliardo sarà raccolta presso investitori istituzionali. E poi si valuterà dove ottenere eventuale un altro 1 miliardo, probabilmente per arrivare a quota 3 miliardi. Le principali caratteristiche di questo fondo per le piccole e medie imprese, ricordo, sono 15.000 imprese italiane che hanno un fatturato tra i 10 e i 100 milioni di euro, le ha ricordate alla nostra Alessandra Schepisi, la Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Questo è uno strumento per capitalizzare, per aumentare il capitale delle imprese. Noi pensiamo che da una parte noi dobbiamo garantire certi strumenti che aiutano il credito, per esempio il fondo di garanzia o la revisione di Basilea 2, che per noi è molto importante. Questo è uno strumento più che aiuta proprio l'impresa ad aumentare il capitale. In un momento come questo serve più capitale, serve aggregare le imprese. Ci sono tante imprese in Italia che hanno una dimensione troppo piccola proprio per affrontare un processo di internazionalizzazione dove è necessario fare più ricerca e innovazione, quindi noi lo vediamo come uno strumento proprio per dare più competitività alle imprese. così la Presidente di Confindustria, ma come ricordavamo, dentro la prima tranche, questo primo miliardo del fondo, vi saranno, oltre alla Cassa Depositi e Prestiti, anche Unicredito, Monte dei Paschi, Intesa San Paolo e appunto la CDP. Sentiamo su questo il Presidente dell'ABI, Corrado Faissola, che ha spiegato quale sarà il ruolo dell'associazione bancaria in questa iniziativa. La partecipazione dell'ABI a questa iniziativa, alla quale è stata invitata e l'ha accettata con grande piacere, con grande entusiasmo, se volete, da parte dei promotori, è finalizzata a far partecipare, direi indirettamente per il momento, a questa iniziativa tutto il sistema bancario italiano, oltre i primi tre grandi gruppi che hanno già dato un'adesione specifica per apportare risorse finanziarie importanti. Io auspico che la presenza dell'associazione che rappresenta tutte le banche italiane nell'iniziativa, nella SGR, sia anche la premessa per poi direi, indurre e direi raccomandare alle banche non presenti immediatamente di apportare il loro contributo nelle quantità, nelle misure che ognuno in relazione alle proprie forze potrà fare. E allora, visto che qualche soldo, o meglio appunto un miliardo per ora, sta arrivando e sarà operativo da marzo, sentiamo due dei protagonisti, le banche le abbiamo ricordate, allora nell'ordine sentirete il giudizio di Corrado Passera, che è consigliere delegato di Intesa San Paolo, e poi di Alessandro Profumo, che è amministratore delegato del gruppo Unicredito, sempre sul ruolo di questo fondo, il perché le banche abbiano partecipato e l'obiettivo che vorrebbero ottenere. Per un paese come il nostro crescere vuol dire investire in innovazione, in internazionalizzazione, e per far questo sono necessarie dimensioni sufficienti, è necessaria una patrimonializzazione in molti casi superiore all'attuale, e quindi in tanti modi tutti stiamo adoperandoci per assicurare questo rafforzamento delle imprese italiane. Questo del Fondo per le piccole e medie imprese è uno dei modi più efficaci. Noi come Intesa San Paolo abbiamo immediatamente dato la nostra disponibilità ad appoggiare l'iniziativa, sia perché ci crediamo. In questi ultimi anni abbiamo impegnato 1,250 miliardi in interventi nel capitale delle piccole e medie imprese, quindi con questi 250 milioni arriviamo a 1,5 miliardi, ma ci sembrava che farlo insieme ad altre banche, farlo insieme nell'ambito di un'iniziativa del Ministero desse ancora più valore. Una delle finalità chiare di questo fondo è quello di accompagnare aggregazioni e ricapitalizzazioni per fare ulteriori passi nella operatività. Credo che sia fondamentale. Sappiamo che le imprese tra 10 e 100 milioni di euro di fatturato sono la struttura portante dell'economia italiana. Le imprese sopra queste soglie di fatturato sono relativamente poche, e quindi pensiamo che, così come abbiamo visto in altre realtà, riuscire ad accompagnarle in passaggi che saranno importanti anche nel miglioramento della loro governance, della loro proiezione internazionale, della loro capacità di gestire con dei soci esterni, che peraltro hanno un termine, la loro vita aziendale è importante. Perché hanno un termine? Il fondo ha questa durata di 14 anni. Comunque vada, ci sarà un momento in cui l'imprenditore si dovrà porre il problema di chi sostituirà il fondo, e questo fin dall'inizio lo obbligherà a ragionare in un modo nuovo. Credo che sia proprio quel processo di crescita culturale che tutti noi dobbiamo fare in un modo o nell'altro, e che consentirà di avere più robustezza nel tessuto imprenditoriale del Paese. Così appunto Corrado Passera e Alessandro Profumo. Tutto bene quindi? No, beh, il presidente di Confindustria Marcegaglia comunque ha chiesto che venga rinnovato anche per il 2010 nel decreto mille proroghe, quello che contiene un insieme di appunto proroghe e iniziative, il bonus per la capitalizzazione è quello per l'aggregazione delle imprese, cioè il vantaggio che viene dato alle imprese che reinvestono nel loro capitale, aumentano la capitalizzazione e la patrimonializzazione da un lato, e oppure si aggregano. Noi abbiamo chiesto che ci fosse un maggiore stanziamento per il credito per la ricerca e innovazione, che è molto importante, ci sono 400 milioni di euro in più, c'è la detassazione, viene riproposta la detassazione dei premi di produttività, c'è un pacchetto sul welfare e sugli ammortizzatori sociali che noi condividiamo, aspettiamo ancora uno stanziamento maggiore sul fondo di garanzia proprio per aiutare un maggiore afflusso di credito alle banche, e pensiamo anche che debbano essere riproposti i bonus aggregazione e patrimonializzazione, che sono utili anche per questo strumento di cui parliamo. Stiamo anche ragionando con i ministeri competenti per avere un rifinanziamento di Industria 2015 o alcuni incentivi ai consumi. E allora, vedo molti messaggi al 349-238-6666 sulla definizione che il ministro Monti ha dato dello scudo, ossia del rimpatrio di soldi illegalmente portati fuori, quindi soldi evasi, come la più grande manovra finanziaria della storia. Era in senso lato, penso, perché chiaramente la manovra finanziaria è un'altra cosa, è quella più grossa, se non ricordo male, come rimettere a posto i conti fu quella dell'allora primo ministro Amato, Giuliano Amato, ma vado a memoria, come ammontare. Manovra finanziaria, se ho ben capito, Tremonti lo dice per dire non si è mai visto un tale rientro di una tale manovra sui capitali di questo tipo, ma chiaramente non ha niente a che vedere con la finanziaria in senso tecnico, che è quella che deve andare a gestire le voci di uscita della spesa pubblica e le voci di entrata, possibilmente riducendo poi quello che è il deficit e il debito pubblico. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Parliamo adesso di borsa e poi dell'andamento del settore alberghiero. Alcuni di voi ci chiedono se è vero che, visto che parlavamo di finanziaria, sono stati ridotti i fondi alla giustizia. Sì, è quello che risulta, il fondo per la giustizia è passato da 1.400, da 1 miliardo e 4 a appena 18 milioni. Attenzione, perché poi diventa difficile soprattutto per la giustizia civile continuare a operare, e la giustizia civile serve anche ai processi economici, poi inutile dire che non funziona la giustizia. Comunque di riduzioni ce ne sono state parecchie. Andiamo sui mercati, che è meglio. Bene la borsa oggi, più 1,2% e più 1% Parigi, più 1,6% Francoforte, mezzo punto invece il rialzo di Londra e lo 0,4% quello americano. Allora, Mediobanca più 5,1%, qui il motivo si chiama intervista di Alessandro Profumo al Corriere della Sera, in cui dice in sostanza: la nostra quota in Mediobanca è da considerarsi strategica. Chiedo conferma ancora dopo oggi, Radio Corriere sulle 24 ore. Sì, buonasera. Sì, esattamente quello è il motivo scatenante, in particolare per Mediobanca. L'intero comparto bancario, tuttavia, oggi ha beneficiato di queste indiscrezioni riportate dal quotidiano giapponese Nikkei, secondo cui il Comitato di Basilea per il controllo bancario intende concedere una proroga da 10 a 20 anni alle banche stesse per adeguarsi alle nuove norme di Basilea II. Quindi questo è un... Sì, che è una notizia apparentemente tecnica che riguarda il mondo bancario, però dare più tempo alle banche per adeguarsi ai nomi di Basilea 2 ha un significato poi positivo sui conti delle banche. Certo, anche permette maggiore margine, flessibilità. Margine, anche permette di continuare a erogare credito senza dover limitare l'attività per aumentare la base di capitale. Esatto, perché Basilea 2 per le banche vuol dire soprattutto una maggiore rigore tra la patrimonializzazione, tra i capitali, accantonamento di capitale che è in cascina, e quello e i prestiti che tu eroghi. Ecco perché il Banco Popolare cresce del 3,2%, Unicredit più 2,1%, Monte dei Paschi più 1,7%, Intesa più 1,5%. E andando avanti con le banche, Popolare di Milano più 1%, molto forte anche A2A più 4,1%, nonostante le smentite su un dividendo più alto delle attese. Sì, infatti oggi la società, su richiesta dell'autorità di mercato, è intervenuta per smentire le dichiarazioni, per smentire che siano stati presi degli impegni dal management in merito all'importo di dividendi sull'esercizio 2009. e anche sul 2010. Chiaramente il mercato continua comunque a credere che ci sia un provvedimento di questo tipo in fase decisionale. Comunque è una decisione che deve essere poi presa dall'assemblea dei soci. Prysmian, qui c'è notizia, più 2,9%. Sì, Prysmian ha comunicato di aver vinto una commessa da 300 milioni da Terna per la realizzazione di un collegamento elettrico sottomarino tra la Sicilia e l'Italia e la penisola. La commessa ha un valore di 300 milioni ed è definito così di importanza strategica per la rete nazionale. Sì, ti prego di non cadere in lapsus, diciamo, leghisti, perché la Sicilia è già per fortuna Italia, ma è semplicemente viene in questo modo collegata la rete al continente. Andiamo avanti con Pirelli, anche qui abbiamo avuto movimenti abbastanza altalenanti sul titolo Pirelli, che alla fine chiude con un più 0,9%, ma la cosa importante che riguarda il mercato è che Benetton ha confermato che resterà nel patto di sindacato. Sì, l'ho detto Gilberto Benetton, che si trova a Parigi per inaugurare la nuova food court di Autogrill al Louvre. Ha confermato che l'intenzione del gruppo è di rinnovare il patto, e questa dovrebbe essere la quinta o sesta volta che lo rinnovano, come ha detto lui stesso, e sono presenti in Pirelli da 15 anni, quindi è un impegno di lungo termine. Ancora bene, i bancari li abbiamo detti, Mediolanum oggi recupera più 1,9%, l'Automatica più 1,8%, Monte dei Paschi più 1,7%, Exor più 1,6%, Mondadori più 1,4%, ST Microelectronics pure. L'1,4 lo guadagna anche Mediaset, l'1,2 Fiat, Finmeccanica e Fondiaria SAI. Tra l'altro qui c'è una notizia, la Banca Popolare di Milano e Milano Assicurazioni hanno raggiunto, una notizia attesa, l'accordo per il divorzio consensuale. Nella divisione Banca Assurance, la banca riacquisterà il 51% di BPM Vita dalla compagnia del gruppo Fondiaria SAI per un corrispettivo di 122 milioni di euro circa. Tutto verrà formalizzato entro fine anno e poi invece la chiusura dell'operazione arriverà nei primi mesi del 2010. Tra chi perde, Geox poca cosa, meno 0,7%, Campari meno 0,6%, Terna meno 0,4%. Tra i titoli, bene, anche in Pregilo più 1,2%, anche qui c'è una notizia. Sì, come nel caso di Prysmian, a far salire il titolo è stato l'annuncio di una commessa. In questo caso è stata vinta in Colombia per la realizzazione di un progetto idroelettrico sul fiume Sogamoso, e questa commessa ha un valore di 345 milioni. In Pregilo sta già realizzando delle opere preliminari per un valore di 55 milioni. Va bene per quello che riguarda anche in Pregilo, anche qui appunto commessa quasi simile, 345 milioni. Migliori e peggiori in assoluto. Banca Italease meno 5,7%, ma ci sono novità su Banca Italease? Non 84 centesimi di euro l'ultimo prezzo. No, non ho trovato notizie. No, era per sapere, perché di nuovo sotto pressione in questi giorni. Pininfarina meno 4, e poi Sogefi meno 4%, RDB meno 5%, EMS meno 4,7%. Chi guadagna? Roma Calcio più 12%. Il gruppo Louis Vuitton Moanesi più 8%, Pirelli sulle risparmi non convertibili più 7,2% e Uniland più 7,7%. Grazie Corrado Poggi. Allora, le vacanze di Natale, iniziano i primi rapporti. Ieri abbiamo parlato delle spese, di come vanno l'export dei generi alimentari. Dico subito che cercheremo di tenere insieme i dati che stiamo per illustrare con quelli che illustreremo nella seconda ora, che arrivano dalla Banca d'Italia, che registra a prezzi correnti, quindi al netto dell'inflazione, un impoverimento tra il 2008 e il 2007, tra il 2007 e il 2008 delle famiglie italiane del 5%, dovuto soprattutto alle perdite negli investimenti finanziari, e comunque registra un decennio in cui le famiglie italiane si sono impoverite, il passaggio lira-euro, quello che volete voi. Lo dico perché adesso invece ascolteremo dei dati leggermente diversi che possono sembrare in contrapposizione. Saranno 10 milioni infatti gli italiani che si recheranno in vacanza per le feste di Natale e Capodanno, un 20% in più rispetto al 2008. E già questo è un dato, perché insomma stiamo parlando di 2 milioni di persone in più. Il giro d'affari raggiungerà i 5 miliardi e 300 milioni di euro, anche qui un 10% in più rispetto all'anno scorso. E le mete preferite, Natale e Capodanno, l'85% degli italiani resterà in Italia, un dato 87% sotto Capodanno, un dato più alto rispetto all'anno scorso che era l'84%, ma insomma Lombardia, Piemonte, Trentino e Toscana le mete preferite. Il dato è apparentemente in contraddizione con quello che registra la Banca d'Italia, perché se poi andiamo a vedere quale sarà la spesa pro capite per chi resterà in Italia sotto le vacanze, beh, si scopre che sarà di 505 euro contro i 550 euro dell'anno scorso, un meno 10%. Aumenterà invece la spesa di chi va all'estero, che toccherà i 1255 euro con un più 44%. E quindi, se ho ben capito, si va più in vacanza ma si spende di meno. Chiedo conferma al presidente di Federalberghi Confcommercio, Bernabò Bocca. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Me lo conferma, più persone, più italiani in vacanza ma con una spesa pro capite più bassa? Assolutamente sì, i dati sono positivi per quanto riguarda il numero delle presenze, quindi degli italiani che si muoveranno. Dall'altra parte ovviamente gli italiani si muovono ma vogliono spendere di meno, quindi sono alla ricerca di offerte, di promozioni. Gli alberghi dal canto loro hanno mantenuto i prezzi sul livello dell'anno scorso, in molti casi li hanno abbassati, e da questa situazione dipende il calo della spesa pro capite che assistiamo in questa ultima settimana. Ah, cioè lei mi dice che la spesa è più bassa perché è più basso il costo degli alberghi, non perché io vado meno giornate in albergo? No, le giornate sono sostanzialmente invariate rispetto all'anno precedente. Mm-hmm. Oggi però gli alberghi, per supplire al calo di presenze avuto nell'anno 2009, hanno abbassato le tariffe, hanno fatto delle offerte promozionali anche nel periodo di Natale, e da questo dipende il minor costo. Ecco, quindi su questo ci conferma che anche il fatturato del settore alberghiero dovrebbe essere calato, oppure è stato compensato da un maggior numero di italiani, o dovrebbe essere compensato da un maggior numero di italiani in vacanza? Ecco, io non vorrei che questo dato traesse in inganno, perché voglio dire, i quattro giorni finali dell'anno non invertono purtroppo una tendenza negativa dell'anno 2009. Il turismo chiude con un calo a doppia cifra per quanto riguarda l'anno 2009, in questo ultimo periodo abbiamo avuto un buon risultato di italiani, e non di stranieri, di italiani, più 20% di presenze e più 10% di ricavi, quindi anche in questo caso si dimostra come a fronte di un aumento di presenze non ci sia un aumento proporzionale dei ricavi. Veniamo all'estero, o meglio agli stranieri in Italia, perché se ho ben capito voi siete abbastanza, non dico preoccupati, ma insomma perplessi sul 2010. Allora, i danni peggiori dell'arrivo degli stranieri, a quale area riferiscono? L'area della sterlina e del dollaro? Sicuramente l'area della sterlina e del mercato inglese in primis, e anche il mercato americano nel 2009 ha avuto dati negativi intorno al 30-35%. Mm-hmm. Non è un problema dell'Italia, è un problema mondiale, è un problema internazionale. Sicuramente alcune destinazioni italiane, quali ad esempio le città d'arte, che vivono soprattutto di turismo straniero, anzi di turismo americano, quest'anno hanno sofferto. Infatti le città d'arte hanno un calo rispetto all'anno scorso intorno al 15-20% sui fatturati. E aree geografiche in sofferenza, non so, qualche giapponese, qualche cinese, visto che sono tanti, no? Dei cinesi non c'è ancora traccia, e sicuramente il mercato del futuro, bisogna vedere quando questo futuro avverrà, perché a oggi i cinesi viaggiano in gruppi organizzati con una spesa media di 40-50 euro a notte, quindi non è un mercato interessante per il mercato italiano. Oltretutto il fatto che non ci siano voli e collegamenti diretti portano questi cinesi ad arrivare più che altro in Germania e in Inghilterra. Sicuramente quello che a noi sta penalizzando fortemente oggi è un euro molto forte nei confronti sia dello yen che del dollaro, che rende tutta l'Europa sicuramente meno competitiva rispetto ad altre zone dell'area dollaro che diventano maggiormente competitive per quei turisti. Quindi i cinesi per ora negli alberghi non li vedete, si vedono diciamo nei bar, ma dall'altra parte del banco. Assolutamente sì, mentre un mercato più maturo del mercato cinese è il mercato indiano. Dall'India stanno arrivando già turisti con alta capacità di spesa, e devo dire ecco che sicuramente il mercato cinese nel futuro sarà un mercato più importante, ma nell'immediato i primi risultati li stiamo avendo dal mercato indiano, senza considerare la grossa crisi che ha avuto anche il mercato russo, che nel 2007-2008 ha in qualche maniera compensato il calo di domanda da parte del mercato americano, e che purtroppo nel 2009 anche lui è entrato in crisi. Un'ultima domanda, Presidente Bocca, le chiedo un minuto di risposta, ma non sarà che noi non riusciamo a intercettare i grandi flussi internazionali perché abbiamo una struttura alberghiera poco basata sulle catene, sulle grandi catene, quindi là dove si appoggiano i tour operator abbiamo sempre un alto tasso di proprietà individuale, gestione familiare negli alberghi? Questo io non credo, sicuramente questo è un problema, ma non è il problema. Io credo che il grosso problema è la mancanza in Italia di un grosso tour operator che faccia incoming. Noi abbiamo tutti tour operator di piccole dimensioni che fanno outgoing, cioè che portano gli italiani all'estero. Fuori. I nostri paesi concorrenti come Francia, come Spagna, come Germania hanno viceversa dei grossi tour operator che portano gli stranieri dentro quel paese. Credo che questo è la grossa lacuna che noi abbiamo oggi nei confronti dei nostri competitors, e in secondo luogo una promozione del paese Italia troppo frammentata, in quanto la competenza regionale del turismo porta le singole regioni a fare iniziative promozionali in maniera scollegata e scoordinata. E questo purtroppo, questa è una vexata, questa è un vecchio tema che non riusciamo mai a risolvere, anche se qualcosa si sta muovendo, ma ancora troppo poco. Grazie al Presidente di Federalberghi Benabò Bocca, e buon Natale, buon anno a tutti gli associati. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia. E allora, dopo aver commentato la fiducia alla finanziaria, le varie dichiarazioni, il fondo per le piccole e medie imprese, il primo miliardo sarà operativo da marzo, abbiamo sentito anche la Presidente di Confindustria Marcegaglia e il numero uno di Banca Intesa Corrado Passa e di Unicredito Alessandro Profumo. Un miliardo, poi dovrebbero arrivare a 2 miliardi a disposizione per le imprese, ripeto, tra i 10 milioni e i 100 milioni di fatturato. Abbiamo anche sentito che nonostante una tenuta con un aumento delle presenze, una diminuzione della spesa nel settore alberghiero per Natale e Capodanno, la chiusura dell'anno per il mondo del turismo sarà con un calo a due cifre in molti settori a partire da quello alberghiero. Adesso ci occupiamo del bollettino della Banca d'Italia, che è andata, bollettino statistico, come ogni anno, a fotografare l'andamento della ricchezza delle famiglie italiane. I dati sono relativi al 2008, c'è un accenno al 2009, ma il primo semestre 2009 con una poca variazione. Comunque la fotografia è del 2008 rispetto al 2007, e qui la crisi finanziaria, adesso spiegheremo perché, si è fatta sentire, e non poco. La ricchezza netta complessiva delle famiglie italiane infatti è calata a prezzi costanti, quindi al netto dell'inflazione, del 5% rispetto al 2007. Sono 433 miliardi di euro. In meno. Che cosa ha pesato? Perché la cifra è impressionante, 433 miliardi di euro in meno come ricchezza delle famiglie, è impressionante perché? Perché la parte negativa è pari a 521 miliardi di guadagni da capitale in meno rispetto al 2007, questo vuol dire il crollo delle borse e di qualunque investimento finanziario, a parte forse i titoli di Stato, chiaramente, mentre è aumentato il risparmio delle famiglie, positivo per circa 88 miliardi. La differenza tra 521 miliardi di guadagno da capitale in meno e 88 miliardi di risparmio invece in più porta a una differenza, a un'erosione di 433 miliardi di euro nel 2008 rispetto al 2007. resiste la casa che vale 196.000 euro a famiglia. La ricchezza nelle abitazioni, cioè quello che è l'investimento di tutte le famiglie italiane nel mattone, è pari a 4.700 miliardi di euro. Per carità, la crisi si è fatta sentire anche sul mercato immobiliare, infatti è cresciuta praticamente del 2,8% al netto dell'inflazione tra 2007 e 2008, contro un andamento che durava da 12 anni con tassi del 6,6% di anno in anno. E poi la Banca d'Italia dice: attenzione, nel 2008 la metà più povera delle famiglie italiane deteneva il 10% della ricchezza totale, mentre il 10% più ricco deteneva il 44% della ricchezza complessiva. E quindi, se capisco bene, una famiglia su due, quella più povera, ha il 10%, mentre il 10% delle famiglie detiene il 44% della ricchezza complessiva. Questo la dice lunga sull'aumento di quella che gli economisti chiamano la forchetta, la forbice tra chi ha e ha molto e chi ha e ha meno. Qui però introduco subito un primo tema e lo facciamo chiaramente con un nostro ospite. Il numero per gli sms è 349-238-6666, professor Giampaolo Fabris, che insegna sociologia dei consumi all'Università San Raffaele di Milano, uno dei massimi esperti di consumo e anche abitudini del consumo in Italia. Buonasera. Buonasera. Dicevo, vorrei introdurre un primo tema. Allora, è sicuramente vero che è aumentata la differenza tra chi ha tanto e chi ha poco. Abbiamo anche dati di altro genere. Penso per esempio all'Istat, che dice ci sono più di 8 milioni di poveri in Italia, pari al 13% della popolazione. È anche vero però che questo è un paese in cui si stima che il sommerso, cioè quello che sfugge al fisco, il nero, valga 200 miliardi di euro. E voglio dire, abbiamo visto un caso oggi, non voglio fare voli pindarici, ma insomma sui giornali oggi c'è un caso emblematico, a mio avviso. L'avvocato superconsulente Giovanni Pascone è accusato dal fisco di aver evaso 40 milioni di euro. Non ha dichiarato al fisco compensi per 40 milioni di euro in 2 anni, IVA sottratta all'erario da 16 milioni di euro, era consulente giuridico anche della Presidenza del Consiglio, 80 incarichi in enti pubblici e sociali servizi. Certo che insomma in questo paese, professor Fabris, è difficile poi andare alle cifre esatte, perché è sicuramente vero che il 10% delle famiglie detiene il 44% della ricchezza. Non so nella fascia invece della cosiddetta povertà quanti siano poveri per finta, perché poi vediamo anche 110 miliardi di euro rientrare come scudo fiscale ed essere così tanti che il governo andrà a prorogare lo scudo fino ad aprile, professore. No, lei ha perfettamente ragione, questo è un fatto scandaloso, veramente vergognoso, però ahimè ci sono invece, dobbiamo calcolare un 15-20% della popolazione italiana che è povera per vero e che in questo periodo di crisi ha veramente accentuato ulteriormente il disagio, il fatto che perfino la spesa alimentare nell'ultimo anno sia diminuita, sia pure di poco, è un dato significativo. Certo è offensivo e scandaloso quando poi si leggono informazioni di questo genere. Noi sappiamo quanto il nero pesi sul mercato del lavoro, ahimè. Quindi comunque questo 15% viene stimato anche dall'Istat, dalla Carta, insomma lì non ci muoviamo. Vorrei però, dopo le informazioni per chi è in viaggio, certo raccontare come stanno cambiando anche i consumi degli italiani. Lei citava il meno 2% vado a memoria nei consumi alimentari, che è sicuramente un indicatore non bello, perché prima di toccare i consumi alimentari uno tocca altro, però con dicembre si chiude un decennio e questo è innegabile. Forse è anche il caso di fare il punto sul potere d'acquisto, la ricchezza delle famiglie italiane in questo decennio, che ha visto, tra le altre cose, è inutile nascondersi dietro un dito, un impoverimento del potere d'acquisto di chi ha lavori dipendenti, come passaggio dalla lira all'euro. Ecco, in parte è stato recuperato, in parte, da un'inflazione molto bassa e, per chi ha mantenuto il posto di lavoro, da un aumento di conseguenza del potere d'acquisto, ma insomma forse il decennio che si chiude è un decennio in cui le famiglie italiane, complessivamente date, non hanno aumentato la propria ricchezza. Allora, professor Fabris, prima di arrivare poi a come stanno continuando a cambiare i consumi, le scelte di consumo, le spese, non è che si spende in maniera diversa, si spende anche un po' meno, come ci dicevano anche gli albergatori, ma si spende in maniera diversa. Possiamo fare un primo bilancio di questo decennio che si sta per chiudere, o che comunque con entra nella sua fase conclusiva, quanto a ricchezza delle famiglie italiane, al di là a questo punto del dato che commentavamo della Banca d'Italia? Ma senta, io credo che il punto di partenza è quello che lei diceva, cioè c'è stato oggettivamente un processo di impoverimento della società italiana che ha toccato anche segmenti relativamente al riparo in passato. Non è un caso che in questo dato della Banca d'Italia la mancanza di guadagni da borsa abbia inciso così tanto, quindi ha toccato anche segmenti, un po' gli happy few, che normalmente erano relativamente tranquilli in periodi di crisi economica. Che cosa è successo in questo periodo? Ma sul fronte del consumo ci sono stati dei cambiamenti che io non esiterei a definire proprio epocali, veramente incisivi. Alcuni che hanno provocato disagio, insomma, soprattutto nelle famiglie con minor potere d'acquisto, e altro che stanno cambiando strutturalmente, a mio modo di vedere saranno delle conseguenze che si vedranno anche nei prossimi anni, proprio i modelli di consumo degli italiani. Anzitutto è scomparso lo spreco. Questo è un dato, a mio modo di vedere, significativo. Soprattutto, mi scusi, quando dice è scomparso lo spreco, dice adesso come effetto della crisi o parliamo del decennio? Stiamo parlando del decennio, ma che poi ha avuto il suo acme, insomma, proprio nell'ultimo, dall'ottobre dell'anno precedente, insomma, nel momento in cui è scoppiata la crisi finanziaria in tutta la sua irruenza. Teniamo presente che lo spreco alimentare, per esempio, pesava per circa un quinto sul budget delle famiglie italiane. C'è stato un accentuato nomadismo, nel senso, e una maggiore cautela nello spendere, nel senso di andare in giro per negozi, informarsi internet, verificare come si poteva spendere meno sostanzialmente senza incidere sulla qualità della spesa. E gli italiani qui hanno fatto delle vere e proprie scoperte. Hanno visto per esempio che a livelli medio-bassi di prezzo era possibile trovare dei prodotti che non avevano un gap di qualità rispetto alle marche più titolate. Non è un caso per esempio che i mercatini rionali, l'outlet, il discount, in larga misura anche le private label, le marche della distribuzione, hanno fatto registrare in questo periodo un forte incremento, ma soprattutto grandi, che pensi per esempio nel settore non alimentare, catene come H&M, come Zara, Muji, Ikea, cioè prodotti che hanno, aziende che hanno un concetto di qualità diverso rispetto a quello che si trova nello standard medio dell'offerta in Italia, che hanno fatto registrare in periodi certamente non favorevoli per le imprese addirittura delle bottom line a livello del bilancio a due cifre. Ecco, io credo che stia cambiando in maniera incisiva e che questi non sono fenomeni contingenti destinati poi a riassorbirsi quando, mi auguro presto, la crisi sarà terminata. Resteranno invece come dei dati, come delle vere e proprie costanti. Per esempio, quello che si è allungato anche molto è stato il processo, gran parte dei beni che noi acquistiamo sono beni di sostituzione, l'auto, la macchina, l'abbigliamento. Ecco, è un fatto largamente discrezionale decidere quando mi compro una giacca nuova o decido di cambiare l'elettrodomestico. Si può darsi che in qualche caso ci sia un buco sul gomito, l'elettrodomestico vada in tilt. In questo caso gli italiani stanno rallentando il processo di sostituzione, che per chi vende è un bagno di sangue, per chi invece, per il consumatore, tutto sommato è stato un piccolo, ma nemmeno un fastidio. Quindi lei dice, nel cambio dei modi di consumare c'è anche il ritorno a un'idea di bene più durevole? Sì, c'è per esempio un concetto nuovo, una richiesta nuova che ormai da tantissimi anni non vedevamo fra le richieste dei consumatori, che forse apparteneva ad altra generazione, che è il concetto di durata. No, viviamo in un mercato dove l'obsolescenza è sempre più rapida, obsolescenza semantica, comunicativa oppure anche di tipo tecnologico, si richiede oggi invece a dei beni di durare di più, che non è un atteggiamento, e questo è molto importante capirlo, di tipo neopauperistico. Per esempio il lusso ha queste caratteristiche, no? Il top di gamma in genere è più costoso, ha queste caratteristiche un po' da show off di altri periodi storici, però in genere è caratterizzato da prodotti che hanno che una vita media più lunga. Però mi scusi, come si concilia la necessità di beni un po' più durevoli e dall'altra con il boom che anche lei ricordava e che ha studiato in questi anni del low cost, vivere low cost, è il titolo anche di un libro, ma non parliamo solo delle compagnie aeree, di Zara, H&M e quant'altro. Ma sa, sono fenomeni che coesistono, cioè da una parte ho un concetto, soprattutto per i segmenti più giovani della popolazione, un concetto di qualità più laico. Per esempio, che senso ha avere la parte dell'armadio che è appoggiata al muro di legno massello quando non la vede nessuno e posso fare, come fa IKEA ad esempio, un legno di trucciolato? Quindi sta cambiando oggettivamente anche dei parametri della qualità. Dall'altro invece c'è una richiesta in altri segmenti di popolazione di prodotti che abbiano una vita media più lunga. Però il vero fenomeno, a mio modo di vedere, che sta così incisivamente cambiando in questi anni i comportamenti del consumatore è il mondo web. Sta diventando un'agenzia di socializzazione al consumo di estrema importanza. Poi non è tanto l'e-commerce, ma il poter scambiare con altri gruppi di consumatori attraverso i blog, attraverso i forum, una serie di informazioni. Una delle caratteristiche del mercato fino a ieri era la asimmetria informativa, cioè l'informazione era chi vendeva, chi produceva a erogarla. Certo. Oggi invece è un passaparola diffuso che spesso indica i prodotti più convenienti, i posti dove posso acquistare con una maggiore riduzione di prezzo e anche, e questo è un fenomeno importante, i prodotti che hanno una maggiore le carte più in regola sul fronte della responsabilità sociale, sul fronte dell'etica. Sì, anche se non sottovaluterei poi l'e-commerce, ossia l'acquisto di prodotti online, visto che eBay per esempio è un modo che va nella direzione che diceva lei, cioè ottenere beni a costi più bassi, magari anche di qualità. Detto questo, professor Fabris, due domande rapidissime. La prima, le aziende, le imprese italiane nel mondo che lei ha disegnato, fatto di beni più durevoli, da un lato appunto convivono beni a basso costo, dall'altro beni più durevoli, con un nuovo modo di concepire il consumo, sono pronte o no? Visto che noi su questo abbiamo fondato buona parte del nostro Made in Italy. Guardi, vorrei dare una risposta iconoclastica. No, non sono pronte, sono in grave ritardo, perché il consumatore che troviamo all'uscita del tunnel è un consumatore estremamente diverso da quello che abbiamo lasciato quando nel tunnel siamo entrati, e non si può combattere le armi con un nuovo conflitto, spesso all'insegna della discontinuità, con le armi del conflitto precedente. È una metafora che usa Turendi, cioè sono armi ormai spuntate, inefficace. Io credo che gran parte delle imprese italiane non abbiano preso atto della profonda discontinuità che sta avvenendo nei modelli di consumo. Ma quando le dice impreparate, mi scusi, si riferisce a che cosa? Cioè, perché, insomma, non hanno capito il nuovo clima di un consumatore che è più cauto, più riflessivo, più attento nello spendere, che prende le distanze da un iperconsumo che non genera più migliore qualità della vita, ma spesso crea più problemi. Con questo, ripeto, non vuol dire pauperismo, non vuol dire austerità, vuol dire una nuova epoca, proprio un nuovo epoca del consumo che sta nascendo, che non si basa più sugli stessi parametri di quelli di un recentissimo passato. E quindi ha già risposto anche alla seconda domanda che avevo per lei, perché al di là del dato complessivo di un calo dei consumi, questo è innegabile, ce lo dice l'Istat, e di una minore ricchezza delle famiglie, la fotografia appunto di oggi della Banca d'Italia, dovuta, ripeto, però a questo meno 5% tra 2008 e 2009, così rispondo anche al 349-238-6666, soprattutto all'impoverimento sugli investimenti finanziari. Dicevo, al di là di questo, c'è poi un movimento ancora più forte che non si chiama semplicemente riduzione del potere d'acquisto, ma si chiama diversa scelta di spesa, ed è su questo che bisogna concentrarsi, perché se ho ben capito il suo ragionamento, non cambieranno nemmeno quando la crisi sarà definitivamente alle nostre spalle, quando si sarà ricostruito il potere d'acquisto precedente. Grazie a Giampaolo Fabris, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata a voi in ascolto, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.